Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Cento deputati del Popolo delle Libertà chiedono al premier Silvio Berlusconi di non porre la fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza. Nel provvedimento sono contenute norme inaccettabili, come quella che consente ai medici, ma anche agli insegnanti e chiunque eserciti incarichi pubblici, di denunciare gli immigrati clandestini. Luigi De Magistris si candiderà alle elezioni europee con Antonio Di Pietro. I magistrati che scelgono la politica non dovrebbero più tornare in magistratura, dice il vicepresidente del CSM, Nicola Mancino. Il sistema previdenziale italiano è in equilibrio e non è necessaria una nuova riforma delle pensioni. Parola del presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua nella sua relazione annuale. Fini, serve un nuovo patto generazionale. Unicredit, niente bonus ai manager. L'amministratore delegato Profumo, il 2009 sarà un anno duro. Tornano gli scontri all'Università La Sapienza. Gli studenti forzano il cordone della polizia che li carica. Cassazione chimica fa discutere la proposta della Lega per pedofili e stupratori. Gli esperti, potrebbe funzionare, ma occhio alla fretta nello scrivere il testo. Vede il video della figlia e si pente, ammette tutte le sue colpe, anche l'omicidio, e si pente in aula il padre che ha tenuto segregata la figlia per 24 anni in Austria. Ve lo ricordate? Prima era Cat Stevens, poi Yusuf Islam, ora ancora Cat Stevens, il cantante di Father and Son, ci ripensa un'altra volta. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Maria Piera Ceci. E allora, in primo piano la politica con le norme che riguardano la sicurezza dei cittadini, norme che approdano alla Camera, in diretta Elisabetta Fiorito. Si è rivolta nel Popolo delle Libertà sul disegno di legge sicurezza. 100 deputati della maggioranza chiedono al premier Silvio Berlusconi di non porre la fiducia sul provvedimento perché ci sono norme inaccettabili. È la prima volta che i deputati si oppongono apertamente ad un disegno di legge dal governo da inizio legislatura. I parlamentari del Popolo delle Libertà sono stati spesso accusati di passività dai colleghi dell'opposizione, ma stavolta non intendono approvare la norma voluta dalla Lega, in particolare quindi quella che dà la possibilità ai medici di denunciare gli immigrati clandestini, un provvedimento che si estende anche agli insegnanti e a chiunque eserciti incarichi pubblici a denunciare gli immigrati clandestini. Una disposizione che viene vista come un obbligo di fatto. Ti chiediamo, si legge nella lettera spedita dal Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia Alessandra Mussolini, di non porre la fiducia sul disegno di legge che in certe parti va contro i più elementari diritti umani e in particolare dell'infanzia e della maternità. Ti chiediamo di dare la possibilità ai nostri parlamentari di rimettere in mano a queste norme offensive per i valori che tu stesso professi. Insomma, la lettera, 100 deputati della maggioranza al premier Silvio Berlusconi. Studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E allora sentiamola, una delle firmatarie del documento. Siamo in collegamento telefonico con Suad Sbai, parlamentare del PDL. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, perché queste norme lederebbero i diritti umani? In fondo stiamo parlando comunque non di un obbligo, ma della possibilità, no, dei medici di denunciare. Ma è una possibilità, ma non dovrebbe essere neanche una possibilità, perché alla fine, secondo noi, è veramente priva di diritti, veramente è un vada contro i più elementari dei diritti umani. Non è, noi facciamo come associazione le donne marocchine in Italia, facciamo fatica, ma veramente fatica, a portare le donne a curarsi, anche per la prevenzione, a farli, portarle anche all'ospedale per curarsi. Qui il problema è che si creeranno dei consultori paralleli, c'è il rischio. Quindi c'è il rischio che gli immigrati tornino nell'illegalità, insomma, nel buio. Già ci sono, una ragazza è morta qualche giorno fa di tubercolosi, e c'è il problema anche che il livello della tassi delle epidemie importanti che non sono più controllabili dalla ASL, da nessuno. Bisogna, secondo me, essere più a pensarci molto molto prima di decidere una cosa del genere, perché cioè, c'è il rischio, molte persone, molti bambini, c'è il rischio che i bambini non vanno più a fare anche le vaccinazioni, c'è il rischio che si crea un dei consultori paralleli clandestini che costano molto molto di più, certo. E si rischia che non abbiamo il controllo della situazione, soprattutto medica, nel territorio. E quindi a questo punto aspettate la risposta di Berlusconi alla vostra, al vostro documento, grazie a Suad Sbai, parlamentare del PDL. E sempre per la politica in primo piano oggi, in vista delle elezioni europee, il PM Luigi De Magistris, Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano, ucciso dalla mafia, e il giornalista Carlo Vulpio sono i primi candidati dell'Italia dei Valori alle prossime elezioni europee. Le tre candidature presentate dal leader dell'IDV, Antonio Di Pietro, in una conferenza questa mattina è stato definito sono indipendenti. L'intervento poi del vicepresidente del CSM, Nicola Mancino, a dire i magistrati che scelgono la politica non dovrebbero più tornare in magistratura. Sentiamo allora la replica di De Magistris. Sono assolutamente d'accordo, è stata per me una scelta molto difficile perché il mio sogno era fare il magistrato, ci ho pensato, sono molto convinto, è un impegno nuovo nel momento in cui sarò eletto, ma anche se non dovessi essere eletto lascio la magistratura per sempre, un impegno politico, costruire un progetto per il paese insieme alla parte migliore della società civile. De Magistris si dimetterà, ha detto al microfono di Alessandro Milan questa mattina Di Pietro, sentiamolo. Senta, ma De Magistris si deve dimettere dalla magistratura come dicono molti? Le posso assicurare che De Magistris quando subito dopo le elezioni farà proprio questo, proprio perché anche lui come me pensa che la strada sia una strada senza ritorno, quello che una volta si passa in politica da quando da magistrato si passa in politica, l'ho fatto io, lo farà anche lui con l'amarezza nel cuore perché faceva e ha fatto un lavoro che di cui era, dava tutto se stesso e come si dice quando uno fa il proprio dovere ne deve pagare le conseguenze. In Italia purtroppo questa è l'amarezza perché alla fine in tutti questi anni è venuto fuori che la colpa è che di chi scopre i delinquenti e non di chi delinque. Questo dunque Di Pietro questa mattina ai microfoni di Radio 24. Giuseppe Zadra, il direttore generale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, si è dimesso dal suo incarico proprio questa mattina. Allora andiamo con Paola Nania a cercare di capire i contorni di questa notizia. Paola. Sì, buongiorno, è iniziata poco fa la conferenza stampa con cui il direttore generale dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Zadra, ha annunciato ufficialmente alla stampa le sue dimissioni dopo 17 anni. Zadra sta spiegando proprio in questi momenti le motivazioni che lo hanno spinto appunto a dare le dimissioni. Ha detto Zadra, nessun retroscena, nessun attrito, ho creduto e credo in questo incarico, ma ritengo concluso il mio percorso. Zadra, lo ricordiamo, rimarrà comunque in carica fino a luglio per appunto permettere di trovare un sostituto. Il primo a prendere la parola durante la conferenza stampa che è ancora in corso è stato però il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, che ha parlato di profondo rincrescimento e ha detto per me la perdita di Zadra è una cosa da far tremare le vene ai polsi. E per ora è tutto. Grazie a Paola Nania. Il sistema previdenziale italiano è in equilibrio e non è necessaria una nuova riforma delle pensioni. Parola del presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua nella sua relazione annuale. Ce ne parla Paola Cavadi. Sì, buongiorno. Come avete detto i conti dell'INPS vanno bene, il sistema previdenziale italiano è in equilibrio. Lo ha detto stamattina il presidente dell'Istituto di Previdenza Antonio Mastrapasqua nella sua relazione annuale esposta qui alla Camera dei Deputati. Il bilancio del 2008 presenta un saldo attivo di oltre 11 miliardi di euro. Il dato positivo è da attribuire al fatto che la platea dei contribuenti italiani e stranieri è cresciuta di oltre 230.000 soggetti. In totale gli iscritti alle gestioni pensionistiche in Italia sono 19 milioni, di questi 2 milioni sono stranieri. Ma oggi si è inevitabilmente parlato anche di riforma previdenziale. Mastrapasqua si è mostrato scettico sull'ipotesi di rimettere mani al sistema pensionistico, ma sentiamolo. Io mi permetto solo di rammentare che un troppo frequente intervento su questa materia rischia di incrinare il necessario rapporto di fiducia tra generazioni. Il sistema delle pensioni ha bisogno di tempi certi. Fare riforme ogni 2 anni rischia di compromettere la capacità di guardare al futuro con la necessaria fiducia e certezza. Per il ministro Sacconi questo non è il tempo di riforme strutturali perché ha detto riforme di questo tipo aggiungono insicurezza all'insicurezza e di un nuovo patto generazionale che concili diritti e aspettative di giovani e anziani ha parlato invece il presidente della Camera Fini. Sentiamo un passaggio della sua relazione. Destinare più risorse pubbliche per le politiche del lavoro sarà più agevole se le forze politiche e sociali condivideranno un nuovo patto generazionale in cui si accetti di lavorare più a lungo in cambio di un welfare più in sintonia con le odierne esigenze della società. Infine il ricordo di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse il 18 marzo di 7 anni fa. Domani l'anniversario. Per l'occasione il ministro Sacconi ha annunciato che sarà dedicata a lui la sede del Ministero del Lavoro di Via Veneto a Roma. E da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Paola Cavadi. Lasciamo le cose di casa nostra. Al telefono con noi Adib Fateh Ali. Buongiorno. Buongiorno. Che ogni giorno per Extra Large commenta le notizie della stampa del mondo arabo. Adib, l'intervista di oggi del presidente siriano Assad su Repubblica, nella quale dice che si fida del presidente americano Obama e quindi sembra aprire nuovi spiragli, ha avuto riflessi anche nella stampa del mondo arabo? Per la verità per il momento non ci sono, il commento è comunque che non a caso Assad sceglie un grande giornale italiano per annunciare questa importante svolta. In fondo il ministro Frattini, invitando Teheran a partecipare al G8 di Trieste per parlare di Afghanistan, è stato il primo a fare un'importante apertura verso gli stati canaglia di cui la Siria fa parte. In realtà però già la settimana scorsa al mini vertice arabo di Riyadh, incontrando i due leader moderati, l'egiziano Mubarak e il sovrano saudita, si era capito che Assad si era offerto come mediatore, che sia la volta buona per lo scoppio della pace nella regione, è presto per dirlo, ma rivolgersi all'Europa alla vigilia della ministeriale ONU-NATO e l'importante summit arabo di Doha, fissati entrambi per la fine di questo mese, fanno ben sperare. Grazie Adib Fateh Ali. E fa pace con Obama dunque il presidente siriano Assad, fa pace con la sua storia il cantante che qualcuno conosce come Cat Stevens, i più direi, qualcun altro invece conosce come Yusuf Islam, per lui nuova piroetta. It's not time to make a change. Sembra proprio aver fatto pace con il suo passato, Stephen Demetre Gheorghiu, in arte Cat Stevens. Dopo la conversione alla religione musulmana alla fine del 77, quando decise di cambiare nome diventando Yusuf Islam, il cantautore britannico di origini greco-cipriote pare infatti intenzionato a firmarsi nuovamente come Cat Stevens. Per qualcuno è soltanto un'astuta mossa commerciale, perché il vecchio nome, che riecheggia le atmosfere del suo periodo d'oro negli anni 70, può fargli vendere più dischi. Ma sembra piuttosto credibile che il grande musicista e cantante inglese, dopo un lento e lungo percorso, si sia finalmente riconciliato con il suo passato. Aveva già iniziato togliendo Islam dietro a Yusuf. L'ho fatto perché la parola Islam non deve essere trasformata in uno slogan. Il cognome è come il marchio ufficiale, ma se devi chiamare un amico lo chiami per nome, aveva detto. In seguito aveva deciso di firmarsi con entrambi i nomi. Cat Stevens per un sacco di gente ricorda qualcosa di importante che non vogliono dimenticare. Quel nome è parte della mia storia, aveva spiegato. E ora, presentando il suo nuovo disco che uscirà i primi di maggio e si intitolerà Road Singer, ispirato alle sue sonorità più classiche, il musicista britannico dice: mi sento come quando ho iniziato e ora, dopo il mio ultimo lavoro in Another Cup del 2006, sono pronto per queste nuove canzoni. Alcuni dei nuovi brani faranno parte di un musical al quale Yusuf Stevens sta lavorando da tempo e che dovrebbe andare in scena a luglio col titolo Moonshadow, come una delle sue canzoni più famose. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 18 minuti, abbiamo parlato nella prima parte del GR Extra Large dell'iniziativa dei 100 parlamentari del Popolo delle Libertà che hanno scritto a Berlusconi no alla fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza, che dicono conterrebbe norme inaccettabili. Poi De Magistris, l'ex PM che si candida con l'Italia dei Valori di Di Pietro alle europee, ma il vicepresidente del CSM Mancino interviene chiedendo ai magistrati che si candidano di non tornare più in magistratura. Poi ancora abbiamo sentito i dati del INPS che sono buoni, dunque buone notizie per il nostro sistema previdenziale nella relazione annuale del presidente. Poi per quanto riguarda le notizie dall'estero, il presidente siriano Assad che tenta di porsi come mediatore con l'Iran. E riprendiamo parlando invece di Unicredit, che questa mattina ha presentato i conti del 2008. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Dopo il via libera del Consiglio di amministrazione di ieri, oggi Unicredit presenta i conti a Londra, la comunità finanziaria. La presentazione dell'amministratore delegato Alessandro Profumo, per la verità, è già terminata. Il titolo sta volando a Piazza Affari, più 12%. Sicuramente una giornata come questa Piazza Cordusio non la vedeva da molto tempo. Cosa c'è di nuovo? Che i risultati sono nettamente migliori delle attese degli analisti. Il 2008 si chiude con un utile netto di 4 miliardi di euro per il gruppo. Viene proposto un dividendo che verrà distribuito esclusivamente in azioni, 13 nuove azioni ogni 36 possedute dagli azionisti, ma soprattutto la banca ha comunicato di aver dato mandato all'amministratore delegato Alessandro Profumo di trattare con i governi italiano e austriaco per richiedere bond di Stato, quindi i Tremonti bond per quello che riguarda l'Italia. L'ammontare italiano sarà però nettamente inferiore rispetto all'ammontare che verrà chiesto al governo austriaco, si parla di circa 1 miliardo, 1,5 miliardi di euro e quindi praticamente l'equivalente di quanto già chiesto per esempio dal Banco Popolare al Ministero dell'Economia. La prestazione di Unicredit a Piazza Affari sta trainando tutti i titoli del settore. Un'ultima curiosità, Unicredit ha fatto sapere che non darà alcun bonus al management per il 2008. È tutto. Grazie Deborah, e ci sono anche gli altri dati economici della giornata, a cominciare dalla produzione industriale che a gennaio è diminuita dello 0,2% rispetto a dicembre. L'indice corretto per giorni lavorativi però ha registrato un calo molto maggiore, 16,7%, sono dati Istat. E terzo calo a due cifre invece per la produzione auto in Italia. A gennaio, comunica sempre l'Istat, il calo annuo è del 54,6% contro il 54,1% di dicembre e il 55,8% di novembre. Sappiamo però dai dati sulle immatricolazioni di nuove auto in febbraio di qualche giorno fa che in Europa la caduta della produzione sta rallentando e ci sono i primi segnali di ripresa derivati dagli ecoincentivi. E allora cerchiamo un po' di capire, ci colleghiamo con il nostro Sergio Nava che ha seguito la presentazione dei dati di uno dei principali costruttori europei, parliamo di BMW. Sergio. Sì, buongiorno da Monaco di Baviera. Un anno di transizione, così il management di BMW vede il 2009 dopo i risultati poco incoraggianti del 2008. Il colosso automobilistico bavarese ha chiuso lo scorso anno con un utile netto a 330 milioni di euro, in calo di quasi il 90% rispetto all'anno precedente. Particolarmente critico l'ultimo trimestre, chiuso con una perdita di oltre 700 milioni. Il presidente di BMW, Norbert Reithofer, ha cercato di lanciare segnali tranquillizzanti al mercato. La liquidità e il cash flow avranno la priorità nel 2009, ha detto, aggiungendo che la sicurezza finanziaria consentirà maggiore libertà di azione. Di qui l'individuazione di 4 assi operativi per tenere la barra di navigazione dritta in quello che si annuncia come un anno difficile: liquidità, cash flow, riduzione dei costi e riduzione degli investimenti. Nel 2009 prevediamo un calo delle vendite globali nel settore auto tra il 10 e il 20%, ha aggiunto Reithofer, non nascondendo una certa preoccupazione. La speranza ovviamente è di una ripresa nel 2010. I risparmi per BMW si tradurranno soprattutto in una riduzione delle assunzioni, nell'introduzione temporanea di contratti di solidarietà per 23.000 lavoratori che ridurranno l'orario lavorativo nelle fabbriche e nel taglio delle retribuzioni per i membri del board. A Monaco di Baviera Radio 24 ha incontrato il vicepresidente di BMW, l'italiano Marco Saltalamacchia, che ci ha così descritto la situazione di mercato nel settore automobilistico. È evidente che le aspettative generali in questo momento giocano un ruolo determinante e che la componente psicologica del consumatore è ugualmente importante. Nella misura in cui questa componente oggi gioca un ruolo negativo, il consumatore ha un atteggiamento di maggiore aspettativa, che si traduce in minori acquisti, che si traduce in minore produzione, conseguentemente in maggiore disoccupazione. Questo genera un circolo vizioso dal quale non si può venire fuori se non si costruiscono dei meccanismi che invertono questo ciclo. La logica degli ecobonus è esattamente in questa direzione, quella di invertire questo volano creando degli stimoli nei consumatori che già oggi si trovano ad avere un potere d'acquisto sostanzialmente superiore a quello che avevano solo qualche mese fa. La CEA, l'Associazione dei Costruttori di Automobili Europea, ultimamente ha avvertito di rischi grossi per il settore dell'industria automobilistica, meno 25% di produzione nel 2009, rischio bancarotta per alcuni costruttori. Previsioni troppo allarmistiche o realiste? Non c'è crisi finanziaria. Crisi finanziaria significa che i settori che sono maggiormente esposti al credito finanziario sono quelli che ne soffriranno di più. In modo evidente, i due settori che sono che hanno un maggiore bisogno di cassa sono quello immobiliare e quello automobilistico. E noi ringraziamo per questa intervista Sergio Nava da Monaco. Anche qua si parla di cali, ma di tutt'altra natura. A febbraio la pubblica amministrazione ha registrato una riduzione delle assenze per malattia rispetto allo stesso mese del 2008. Pensate, quasi il 40%. Il dato è stato diffuso questa mattina dal Ministero della Pubblica Istruzione, da Brunetta, insomma. E ora invece parliamo della televisione. Cominciamo con la RAI. Ancora stallo sul rinnovo del vertice dopo il no della maggioranza sul nome di Angelo Guglielmi. Guglielmi, il Partito Democratico, a quanto è stato comunicato, ha sospeso le trattative per cercare una nuova candidatura. Anche l'assemblea degli azionisti prevista per oggi alle 16 è destinata a slittare. Allora, sugli appuntamenti che però attendono il management dell'azienda, sentiamo Marco Mele del Sole 24 Ore. Ci sono immediatamente e nei prossimi mesi delle decisioni strategiche da prendere da parte del servizio pubblico, in particolare sul digitale. Ci sono rilevanti investimenti da effettuare per la transizione al digitale terrestre in Piemonte, nel Lazio, in Campania e in Trentino. Ci sono nuovi canali da produrre come Rai 5, e bisogna soprattutto decidere le alleanze, cioè decidere che cosa fare con Mediaset e cosa fare con Sky. Con Sky bisogna rinnovare l'intesa su RaiSat che scade a giugno, quindi se essere ancora presenti o meno sulla piattaforma satellitare e in che modo, o se lanciare una piattaforma alternativa insieme a Mediaset. Sono decisioni che non può prendere un vertice uscente, sono decisioni che vanno fatte adesso, non possono essere ulteriormente rinviate. Eppure la politica, come sempre, si ha la netta impressione, pensi solamente al nuovo organigramma che dovrà essere nominato dal vertice, che prima o poi si spera riuscirà a designare. E ci spostiamo dalla Rai a Mediaset, che questa mattina presenta i conti agli analisti finanziari. Sentiamo Stefano Totoro. Sì, buongiorno a voi ai nostri ascoltatori. Dunque, per quanto riguarda i conti, Mediaset ha reso noto all'Assemblea degli analisti che i ricavi operativi del 2008 sono di 4.250 milioni, quindi un 4,2% in più rispetto al 2007, l'utile netto di 459 milioni contro i 506 milioni del 2007, quindi un leggero calo, e ha pesato, secondo quanto riferito dai vertici di Mediaset, la svalutazione per 45 milioni di Endemol. Poi, per quanto riguarda il dividendo, il consiglio di amministrazione proporrà un dividendo di 0,38 euro per azione, un dividendo in calo rispetto allo 0,43 euro per azione dell'anno precedente, quindi del 2007. Mediaset conferma nel 2008 il primato di ascolti delle tre reti per il 41,7% di share. Ovviamente l'argomento della crisi economica ha toccato anche questa presentazione alla comunità degli analisti. Federico Confalonieri ha voluto fare un riferimento al governo. Il governo c'è, ha detto Confalonieri, sicuramente non può accontentare tutti, ma ce la fa. E per il governo, ha continuato poi Confalonieri, immagino che sia difficile trovare risorse senza aumentare il debito, e questa è lungimiranza. E poi il catastrofismo, concluso Confalonieri, che tanto attrae il mondo dell'informazione, è un moltiplicatore di crisi. Per quanto riguarda i primi mesi dell'anno, Mediaset i vertici hanno comunicato che sono stati mesi più difficili, gennaio e febbraio sono stati mesi difficili, ma da marzo e poi da aprile si cominciano a vedere dei piccoli segni di ripresa, come se il periodo più negativo fosse passato. Già passato. Grazie a Stefano Totoro. Dunque, questa è la situazione a Mediaset. Abbiamo parlato dello stallo per i vertici della Rai. Siamo a Sky. E siamo a Sky, per l'appunto, che va avanti con i nuovi volti e naturalmente a caccia di nuovi ascolti. A rimettere tutti gli equilibri in discussione è stato Fiorello. Arriva sul canale 109, che ora è Sky Vivo e diventerà Sky 1. Rai e Mediaset hanno creato TVSat, una nuova piattaforma satellitare che da giugno riproporrà, con un diverso decoder, l'offerta del digitale terrestre che non riesce a coprire l'intero territorio nazionale. Potrebbero quindi decidere di abbandonare il bouquet Sky. A quel punto la prima posizione del telecomando sarebbe proprio di Sky 1. Non solo Fiorello, ma anche Lorella Cuccarini e Giorgio Panariello. Intrattenimento, varietà, comicità preannunciano da Sky senza ispirarsi a Rai 1 o Italia 1. Cosa manca, ad esempio? Il telegiornale, ma Sky TG24 gioca di sponda, ancora una volta con Rosario Fiorello, che avrà una finestra nel servizio Active dove leggerà in chiave ironica le notizie del giorno. E le generaliste? Per il momento la battaglia più vivace è quella della sfida di primavera tra i talent show. Ieri sera Maria De Filippi, spostata apposta al martedì, ha sbaragliato Simona Ventura con il 25,83% contro il 13,3% di share. Ma scrivono i direttori di Rai 1 e Rai 2, che annunciano che la serata finale di X Factor si sposterà sul primo, saremo come gli spartani alle Termopili e resisteremo all'attacco delle forze persiane di Maria. Gli spartani morirono tutti, ma Atene vinse. A meno che, a differenza di quanto accadde alle Termopili, non sbarchino in forze i marziani del satellite e allora l'Unione potrebbe fare la forza. Marta Cagnola, GR24 Il Sole 24 Ore. Le 13:34 minuti, queste le notizie della giornata. 100 deputati del Popolo delle Libertà chiedono al Premier Silvio Berlusconi di non porre la fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza. Nel provvedimento sono contenute norme inaccettabili come quella che consente ai medici, ma anche agli insegnanti e a chiunque eserciti incarichi pubblici, di denunciare gli immigrati clandestini. Luigi De Magistris si candiderà alle elezioni europee con Antonio Di Pietro. I magistrati che scelgono la politica non dovrebbero più tornare in magistratura, dice il vicepresidente del CSM, Nicola Mancino. Il sistema previdenziale italiano è in equilibrio e non è necessaria una nuova riforma delle pensioni. Parola del presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua nella sua relazione annuale. Fini però interviene, serve un nuovo patto generazionale. Unicredit, niente bonus ai manager, l'amministratore delegato Profumo, il 2009 sarà un anno duro. Tornano gli scontri all'Università La Sapienza, gli studenti forzano il cordone della polizia che li carica. Testamento biologico, Berlusconi scrive ai senatori, ricordate di coniugare l'etica della convinzione con quella della responsabilità. E in America morte cerebrale per Natasha Richardson, caduta lunedì sugli sci la figlia di Vanessa Redgrave, oggi i familiari decidono se staccare la spina. Ed era da un po' che non parlavamo della Sapienza di Roma, stamattina invece dobbiamo farlo perché ci si sono registrati nuovi scontri. Simone Spezia, cos'è successo? È successo che questa mattina gli studenti, in concomitanza con lo sciopero organizzato dalla FLC-CGL, ossia la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL contro i tagli all'istruzione, hanno deciso di organizzare un corteo all'interno dell'università. Hanno poi però tentato di uscire dalla cittadella universitaria per dirigersi verso il Ministero dell'Economia. Fatto che al momento è vietato dai nuovi regolamenti sui cortei che ci sono a Roma. La polizia ha bloccato le uscite e a quel punto ha caricato gli studenti che hanno tentato di uscire con la forza. Ci sono stati lanci di bottiglie nella direzione delle forze dell'ordine e anche numerosi lanci di scarpe. A quanto pare al momento tutte le uscite sono bloccate, tutte le uscite dell'Università La Sapienza, della cittadella universitaria. Le forze dell'ordine stanno presidiando, hanno effettuato una nuova carica e a quanto pare in questo momento gli studenti si sono dati appuntamento alle 16 nell'aula 6 di lettere. Da quel che si è appreso non ci sarebbero né feriti né contusi, è tutto. Grazie Simone, ora invece torniamo in Sicilia perché può sembrare un'immagine davvero da medioevo, ma purtroppo è così, sono ancora in circolazione alcuni dei cani del branco che qualche giorno fa hanno aggredito, ucciso un bambino a Scicli nel Ragusano e poi una turista tedesca che è in gravissime condizioni. Le ultime allora dalla Sicilia, da Letizia Carrara. Sì, eccomi, buongiorno, partiamo proprio dalle condizioni della turista tedesca che restano gravissime. Nel pomeriggio di ieri è stata sottoposta a due delicatissimi interventi chirurgici qui all'ospedale di Catania. La donna è stata operata al volto con la ricostruzione bilaterale delle palpebre, al naso, al padiglione auricolare e ancora al seno e in altre parti del corpo. I medici non sciolgono la prognosi e all'alba intanto sono riprese le ricerche dei cani randaggi. In mattinata ne sono stati già catturati 5 che si aggiungono al primo che è stato catturato ieri e i due che sono stati invece abbattuti per legittima difesa dai carabinieri. Insomma, ne rimarrebbero in circolazione dei pericolosi almeno due. Non sono mancate le polemiche però dalle ronde degli animalisti contrari all'uccisione del branco, dalle precisazioni della prefettura sulle modalità di cattura delle bestie e poi l'ordinanza del sindaco di Modica emanata questa mattina con cui ordina l'abbattimento dei cani pericolosi. Un provvedimento in controtendenza rispetto alle indicazioni che erano giunte dalla sottosegretaria welfare Francesca Martini, polemiche anche sulle competenze, sulla destinazione di fondi per interventi antirantagismo. Il sottosegretario Martini è intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio 24 e ha commentato: sono situazioni inaccettabili, sentiamo. Devo anche richiamare gli amministratori locali a quelle che sono le loro specifiche responsabilità in materia, che sono attribuite dalla legge 281 del 91, che dice appunto che i comuni singoli associati provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono i rifugi per i cani. Se abbiamo cani vaganti inselvatichiti, questo è esattamente il frutto di una immobilità amministrativa rispetto alla gestione del problema del randagismo, che, come abbiamo visto, è un problema gravissimo. Grazie mille a Letizia Carrara. Ora invece parliamo di castrazione chimica come soluzione per frenare gli stupri. La Lega ha presentato, come sapete, un emendamento al decreto legge sulla violenza sessuale che prevede appunto che i condannati per questo reato possano ottenere arresti domiciliari o permessi solo se si sottopongono appunto a castrazione chimica. Paolo Piacenza ha intervistato il criminologo Lino Rossi, docente presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ferrara, e gli ha chiesto a che punto sono gli studi su questo tema. Degli studi nuovi che ci portino delle effettive reali novità sugli effetti delle sostanze, che fondamentalmente sono delle sostanze ormonali, insomma, per cui c'è un'inibizione del testosterone, insomma, questo è comunque ciò che noi chiamiamo castrazione chimica oggi. Non c'è stata una grande evoluzione dal punto di vista della scelta delle sostanze da somministrare. Si tratta di un inibitore di funzionamento del testosterone. Allora, i dati che ci dà sono dei dati che ci danno le ricerche, sono dei dati altalenanti, perché da un lato, ovviamente, essendo un inibitore del testosterone, ha come effetto collaterale ovviamente l'abbassamento della libido, e questo è chiaro, è il suo effetto di funzionamento come inibitore del comportamento sessuale, e da un certo punto di vista diciamo che i dati ci dicono che funziona. Il problema è che non sappiamo effettivamente il rapporto che c'è fra quello che succede a livello del corpo nel momento in cui noi abbiamo la cessazione dell'effetto del testosterone e quelle che sono invece le problematiche di personalità del soggetto. Allora noi dobbiamo pensare che una terapia veramente efficace è una terapia che mette insieme dei dati di carattere fisiologico, psicofisiologico e dei dati di carattere psicologico-comportamentale. Ora, a questo punto mi sembra che sia piuttosto immaturo sostenere che i dati oggi siano migliori di quelli di 4 o 5 anni fa. Quindi la proposta presentata dalla Lega in Parlamento la convince, non la convince? La proposta presentata dalla Lega mi convince da un punto di vista teorico, nel senso che sono d'accordo col fatto che occorra costruire una protezione nei confronti dei minori, perché le patologie di carattere sessuale sono delle patologie di difficile estirpazione sul piano dell'intervento psicoterapeutico, per questo ritengo che sia un po' strano, un po' difficile convogliare i trattamenti delle persone anche dal punto di vista psicoterapico, perché non ci sono delle evidenze cliniche che ci consentano di poter dire che la psicoterapia abbia valore. E dall'altra parte pensare solo quindi di agire sulla base farmacologica, il problema si pone nel momento in cui noi cominciamo a scalare il farmaco, o pensiamo che sia a vita questo tipo di soluzione. Allora, se la soluzione deve essere a vita, questo confligge un po' con la certezza della pena, quindi sul piano criminologico mi sento un po' a disagio in questa situazione. Occorrerebbe rivedere il vecchio concetto della pericolosità sociale, ma non lo si può far rientrare in una virgola dentro nel problema legato ad una singola fattispecie. O si affronta completamente il tema della pericolosità sociale su certi temi particolari, che possono essere i comportamenti sessuali aggressivi, violenti, eccetera, allora si ridiscute il problema nella sua essenza, allora forse ci si può ragionare, ma aprire questa problematica su un tema specifico mi sembra che sia un po' eccessivo. La soluzione di affiancare alla castrazione chimica la psicoterapia quindi non le sembra efficace? Affiancare l'attività di psicoterapia mi sembra poco, occorrerebbe invece affiancare un intervento di accompagnamento psicosociale, questo serve molto di più di una psicoterapia individuale, che dia delle responsabilità anche a chi vive assieme a queste persone, eventualmente, che elevate dal traffico sociale possano poter godere di una serie di presidi che non sono solo la dipendenza dalla pillola o dalla iniezione, per poter mantenersi in equilibrio col mondo che li circonda. Se capisco bene, quindi si tratta di ipotizzare la castrazione chimica non come una pena, ma come una misura preventiva da utilizzare insieme ad altre misure. Assolutamente sì. E per restare in tema, si dovrà aspettare domani per la sentenza su Josef Fritzl, l'uomo che per 24 anni, come sapete, ha tenuto segregata in uno scantinato e violentato la figlia. Oggi, nel terzo giorno di udienza, Fritzl, alla sbarra nella Bassa Austria, ha ammesso tutte le colpe che gli vengono imputate, anche quella di omicidio, dopo aver visto ieri in aula il video della figlia vittima e dopo essersi, dice, pentito. Nuove regole per la Formula 1. Il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobilismo, Max Mosley, ha preso ieri, come sapete, alcune decisioni che stanno facendo discutere. Titolo mondiale a chi vince più Gran Premi, non più dunque a chi fa più punti. E poi dal 2010 nuove regole sui costi delle auto. Chi accetta di avere dei limiti di spesa avrà dei vantaggi tecnici. Una decisione però contestata dai costruttori, come ha chiarito ieri il presidente della Ferrari Montezemolo, che è anche presidente della FOTA, che raggruppa i team della Formula 1. Ne parliamo con Mario Poltronieri. Buongiorno. Buongiorno. Entriamo subito nel vivo della questione. Innanzitutto io dividerei i problemi tra 2009 e 2010. Sul 2010 si potrà discutere successivamente. Sul 2009 questa decisione di assegnare il titolo in funzione delle vittorie, mentre i team avevano proposto 12, 9, 7 punti a seguire, quindi col punteggio, fa pensare, secondo me, che Mosley e Ecclestone si sono rimessi d'accordo, perché Ecclestone ha bisogno di Mosley per fare appunto delle proposte che sono ritenute inaccettabili dai team, per poter ridiscutere il problema dei quattrini che i team vorrebbero in molto maggior misura da Ecclestone. Contemporaneamente Mosley ha fatto le proposte del 2010, che effettivamente sono piuttosto complesse, non è il caso di citarle adesso, perché ritiene di poter avere l'appoggio di Ecclestone per quello che riguarda la sua rielezione. Quindi io dividerei due problemi, direi discutiamo del 2009 sull'opportunità o meno di dare i punteggi piuttosto che il titolo a chi vince il maggior numero di gare. Montezemolo però ha detto potremmo ritirarci dalla Formula 1, soprattutto per l'altra questione. Fantautomobilismo? Sì, no? Ma questa minaccia è una vecchia storia, anche Enzo Ferrari più volte l'aveva detto. Non ritengo che la Ferrari possa avere un interesse a ritirarsi dalle corse, dato che di tutti i marchi di grande importanza è l'unica che è sempre stata presente nelle corse nella Formula 1. È una minaccia, ma è una minaccia tanto per cominciare il discorso, perché effettivamente la decisione della federazione è stata inaspettata e sconcertante, tenendo presente che tra pochi giorni comincia il campionato. Ci fermiamo qua, grazie naturalmente a Mario Poltronieri, che anche su Radio 24 commenta naturalmente spesso le vicende dell'automobilismo sportivo. 13:48 minuti, abbiamo parlato nella prima parte, nella seconda, di Extra Large, della iniziativa dei parlamentari del PDL che hanno scritto a Berlusconi no alla fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza, che dicono conterrebbe norme inaccettabili. Poi la candidatura alle europee di De Magistris per l'Italia dei Valori, con l'intervento del vicepresidente del CSM Mancino, che dice i magistrati che si candidano non tornino più alla magistratura. Abbiamo sentito anche i dati dell'INPS che, secondo il suo presidente, nella relazione annuale sono in buono stato. E poi gli scontri all'Università La Sapienza tra la polizia e gli studenti in concomitanza con lo sciopero della CGIL nella scuola, e la proposta della Lega sulla castrazione chimica per pedofili e stupratori. Abbiamo sentito il parere di un esperto. Ha fatto davvero una certa impressione ieri sentire un Papa citare esplicitamente il preservativo, anche se per dire che non è la soluzione al problema dell'AIDS. E poco fa, l'avete sentito poco fa anche da noi, il Ministero degli Esteri francese ha espresso grandissima preoccupazione proprio per quelle parole del Papa ieri dal Camerun. Oggi, secondo giorno del viaggio di Ratzinger in Africa, noi ci colleghiamo con Yaoundé e con Carlo Marroni. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Avete detto la propria presa di posizione del Papa ieri sul non uso del preservativo come metodo di lotta all'AIDS sta suscitando reazioni, ma oggi il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, ha ribadito chiaramente che la linea sul preservativo è quella che già aveva adottato, ricorda, Giovanni Paolo II, e quindi non si cambia posizione. Questo naturalmente fa impressione pronunciata in un contesto dove l'AIDS, per esempio in Camerun, conta 1 milione di sieropositivi, in tutta l'Africa subsahariana ce ne sono circa 25 milioni, ci sono picchi di 10-15% di malati sull'intera popolazione. Naturalmente le comunità terapeutiche che sono impegnate sul luogo, come quella di Sant'Egidio, fortissima in loco, adotta delle politiche anche di cura gratuita, ma di preservativo naturalmente non si parla. Il Papa oggi brevemente ha incontrato i vescovi del Camerun, dove ha ricordato l'importanza di una forte formazione delle nuove generazioni, soprattutto dei sacerdoti, per combattere il dilagare delle sette, oltre che del relativismo. Qua la Chiesa è molto giovane, ma in certi momenti ha una crescita tumultuosa, ma in certi momenti può risultare un po' fragile. Grazie, grazie Carlo Marroni anche per questa corrispondenza. Torniamo invece in Italia, perché all'Aula del Senato oggi approda il provvedimento sul testamento biologico. Nei giorni scorsi, come sapete, sono arrivate dichiarazioni bipartisan di disponibilità al dialogo nel tentativo di arrivare a un miglioramento del testo, che nei fatti vede posizioni ancora molto molto distanti da parte dei due poli. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha inviato una lettera ai senatori del Popolo della Libertà sottolineando la delicatezza del tema, invitandoli a contemperare l'etica della convinzione con quella della responsabilità. È un caso davvero molto diverso, ma tant'è. Dall'altra parte del mondo, per l'attrice Natasha Richardson, i familiari potrebbero decidere oggi di staccare la spina. Morte cerebrale, una diagnosi che non lascia spazio a speranze. Non c'è ancora la conferma ufficiale, ma per Natasha Richardson non ci sarebbe più alcuna possibilità. Tutto per una caduta banale, su una pista per principianti, mentre prendeva lezioni di sci. Nessuna ferita evidente, nessun dolore immediato. La Richardson è rientrata in albergo sulle sue gambe e solo più tardi si è sentita male. Forse proprio il ritardo con cui sono stati chiamati i soccorsi ha causato il danno irreversibile. Un trauma cranico senza scampo. Dopo il ricovero a Montreal, l'attrice è stata trasferita in un ospedale della sua città, New York, ed è qui che si è ritrovata tutta la famiglia: il marito Liam Neeson, la sorella Joely, la madre Vanessa Redgrave. Saranno loro che oggi dovranno decidere se e quando staccare la spina delle macchine che la stanno tenendo in vita. Lei, bionda, bella, ma di una bellezza non convenzionale, aveva debuttato al cinema nell'86 interpretando Mary Shelley in Gothic di Ken Russell. Da quel momento la sua carriera è stata un crescendo, tanti ruoli e una solida recitazione teatrale, la dimensione in cui ha raccolto le soddisfazioni più grandi. Tra i suoi ruoli più recenti vanno ricordati quelli in Follia, nella Contessa Bianca, in Un amore a 5 stelle, in Tre vedove e un delitto. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio e Maria Piera Ceci in studio e al coordinamento Simone Spezia, in regia Pietro Lacorte. Appuntamento a domani. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.